viviamo, viviamo negli eti codici che la bellezza rifiora e là fuggevo, fuggevo ora si ne riga voluta liviam nei dolci freniti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente